Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Sì, ho voluto riportarla poi la sigla del Last Minute, perché del resto è un appuntamento di questa sera. Il Breakfast Club si estende, arriva con Mini Express, ne approfitta della serata con console aperta, da un'idea molto azzeccata dello staff di Binario 69 al parco in via Fioravanti 68. Troveremo modo di salutarci e darci appuntamento per la prossima stagione. L'orario, beh, non vorrei essere troppo, diciamo così, per le mie disponibilità, no, penso che siano per tutte e per tutti, dalle 6 alle 9 tendenzialmente, un po' dopo cerchiamo di andare anche oltre, però è un orario che ci consente poi di andare a cena a un orario umano per vivere il resto della serata di una bellissima estate 2024 e iniziare allo stesso tempo in un orario che consente sia chi sta uscendo dal lavoro, allo stesso modo chi si sta preparando per la serata di oggi. Beh, vi aspetto allora al parco di via Fioravanti 68 dall'orario che ho appena annunciato. Sì, è stata un'esperienza molto bella, non solo quella della Open Console, che chiaramente ha avuto modo di conoscenza con altri DJ, con nuovi amici. Ho voluto portare le voci dei più presenti al Last Minute ogni mercoledì mattina, quindi grazie ad Alessandro Pedevani per il suo entusiasmo, la sua competenza in ambito tecnico e anche il suo talento chiaramente come DJ in queste selezioni, tra una disco raffinata, un funk molto forbito, un gusto molto particolare. Grazie anche a Manuel Mitoli, al quale con un caloroso abbraccio auguro una prontissima ripresa e mi auguro di vederlo già da stasera in console. Manuel è stato, per così dire, un rookie nella selezione dei DJ di Fondo Comini, in quanto si è presentato autonomamente, ha portato dischi che spaziano in diverse sensazioni musicali, dal drum and bass all'elettronica, all'ambient, e quindi un lavoro riportato con attenzione per dare un'eterogeneità musicale importante. Grazie anche a Andrea Utensi di Pelé, il fratello Diego Tools, che per adesso ha partecipato, per così dire, come spettatore, ma conoscendolo come DJ mi auguro che magari nella prossima stagione sia presente nella formazione. E poi Erika, che è stata una presenza femminile e sta iniziando, magari si appassiona e darà continuità alla sua esperienza come DJ. E beh, che dire, in fondo poi in fondo in coda ci sono anch'io, che cerco con una direzione artistica, chiamiamola così, di coordinare tutte queste voci, ma ne aspetto altre, aspetto voi ascoltatrici e ascoltatori. Ho divagazioni perché, beh, mi chiamano il dottor Divago, e a tale proposito letteratura che arriva in musica, questa sera porterò diversi libri che omaggerò agli ascoltatori, alle ascoltatrici del Voltiamo Pagina, ma non solo. Quindi la vostra presenza, oltre che per un piacere di incontro, vi è anche per premiare, seppur in maniera modesta, la vostra attenzione. Il vostro calore umano, la vostra partecipazione, che è una co-conduzione, è fondamentale. Il Breakfast Club siamo noi, quindi automaticamente siete coinvolti in questa prima colazione in diretta. Non è una minaccia, ma ne siete coinvolti. Alcuni DJ, ma quello che voglio sottolineare è la bellezza di ritrovarsi, di essere amici, di essere compagni, compagni di viaggio, compagni di esperienza che è nata così per gioco, di trovarci come New Jazzanova, per omaggio alla formazione tedesca, che ha le caratteristiche, anche se vogliamo, che noi riportiamo in console. E questo mi ha dato modo di parallelismo con la formazione Compost e Sonar Collective. Quindi la bellezza, certo, della musica, dell'ispirazione come DJ, del contributo che proviamo e che portiamo ogni mercoledì sera, ma la bellezza anche di ritrovarci nell'amicizia, nel rispetto del nostro lavoro e nella voglia di passare una serata assieme a divertire e a divertirci, ma sempre cercando di fare un ottimo lavoro. Grazie a Luca Livoti, grazie a Roberto, lo staff del Binario 69, l'esperienza Binario 69, che ringrazio e che ho conosciuto con la partnership al Bologna Jazz Festival per quanto riguarda Bologna. Poi ci saranno anche i ringraziamenti a Ferrara per il Torrione Jazz Club. Restiamo momentaneamente con il Binario, che ha l'organizzazione a fondo Comini, Comini Express per l'Open Console, e lo staff anche che si occupa di portare un po' di sollievo a chi soffre il caldo delle temperature che troviamo in questa stagione. Quindi le ragazze e i ragazzi al bar, o chi prepara anche motivo di cena e aperitivo, sempre di seppur immediata ma ottima qualità. Quindi vi aspetto questa sera, vi lascio con un brano musicale a tema per quanto riguarda le selezioni da noi portate. Loro sono gli Speedometer e ricordo, le selezioni vanno rigorosamente in vinile. A tra poco. Ebbene sì, sono un maledetto abitudinario. Oltre alla sigla del Last Minute, non sono riuscito ad esimermi dal mandare anche la sigla del Voltiamo Pagina, sperando di avervi tenuto buona compagnia. Tanti, tanti hanno partecipato ai quiz, magari avete arricchito, come mi piace definire, le vostre biblioteche su uno scaffale apposta. Radio Città Fujiko con il Voltiamo Pagina. Intanto una buona estate a te, Matteo. Spero di incontrarti questa sera per quanto riguarda l'open console al fondo Comini. Al Voltiamo Pagina. Perché il Voltiamo Pagina, eppure non doveva esserci, sarà una pillola, un tributo a una grandissima scrittrice. Mi piace pensare si sia spenta serenamente all'età di 93 anni. Lei è irlandese, lei è cresciuta in un piccolo villaggio in cui, insomma, la realtà di chiusura, come è stata definita, importante da lei stessa, nonostante gli aspetti pittoreschi dell'ambientazione irlandese, purtroppo però per quanto riguarda quello culturale, quella di apertura con visione più moderna, non erano esattamente presenti. Questa è stata una sua grande denuncia. A proposito di questa denuncia, ci sono delle attinenze nella sua ispirazione letteraria. Lei si è ispirata tantissimo, ovviamente, a diversi autori, quindi ovvio James Joyce, Tolstoi, ma in particolare con James Joyce. È un lavoro che ha cambiato praticamente il suo modo di pensare, di intercettare le emozioni e da lì riproporle poi in maniera letteraria. Questo lavoro di Tolstoi, Un ritratto di giovane artista, è portato da James Joyce, se ho detto Tolstoi, scusate, James Joyce, ci mancherebbe, ritratto di giovane artista, in cui il nome, l'alter ego di Joyce era Stefan Dedalus. Dedalus è un omaggio al labirinto, no? Di Dedalo. E Stefan a Santo Stefano, vi ho detto di una denuncia alle sue stesse origini. Ecco, Santo Stefano, uno dei primi proto-martiri cristiani, quindi Irlanda, cristiani, ecco, lei ha preso questo alter ego di James Joyce e il nome Stefano da Santo Stefano, perché Santo Stefano fu il primo a denunciare la chiusura all'interno del cristianesimo e per questo lui fu lapidato ed è stato uno dei primi proto-martiri. Pensate che l'autore della lapidazione fu lo stesso San Paolo, ecco, per darvi alcune attinenze contraddittorie all'interno di tutto ciò. Allora, l'alter ego di Joyce, Stefan Dedalus, è diventato motivo così di ispirazione per la stessa Edna O'Brien, che portava denuncia alla sua società in senso di essere troppo conservatrice e chiusa. E nella sua scrittura Santo Stefano fu accusato di blasfemia, di bestemmiare, perché intanto che l'esecuzione avveniva diceva: padre, se vuoi accogli la mia anima, ma soprattutto, importante questo, non tener conto del peccato che loro stanno facendo. Tutto ciò ovviamente è stata presa come una grave bestemmia, per cui un santo progressista e blasfemo, quindi ovviamente non è semplicemente perché abito in zona Santo Stefano, ma ne ho una particolare devozione e simpatia, ecco. I contenuti di Edna O'Brien erano questi, da Sedie Rosse, un romanzo bellissimo, ovviamente un'attenzione per le donne, per la situazione femminile in un posto dove una tradizione conservatrice e anche, se vogliamo, estremamente cattolica riportava questa realtà, restare indietro. Lei non l'ha mai accettato. Nei suoi romanzi ci sono denunce e contenuti, i percorsi della madre, il ritorno in Irlanda. Il lavoro che a me è piaciuto di più è La luce della sera, Elliot Edizioni. Lei è ispirata molto anche a William Faulkner, altro autore gigantesco. Beh, le due righe che riporta William Faulkner in partenza a questo lavoro, La luce della sera, per Elliot Edizioni, che per me è bellissimo. Porterò dei libri di Edna O'Brien questa sera, e per quanto riguarda questa dedica alla madre, è dedicato alla madre questo libro. Scrive: il passato non muore mai, anzi il passato non è nemmeno passato. William Faulkner. Splendido isolamento, un altro libro molto bello, Le ragazze di campagna, la trilogia di Edna O'Brien, Tante piccole sedie rosse, capolavoro, Oggetto d'amore, li sto citando così per quelli che mi vengono in mente. Scompare a 93 anni, come ho detto, mi piace pensare che vista l'età si sia spenta serenamente. Una vita intensa per una delle più importanti scrittrici, non solo per l'Irlanda, ma a livello mondiale, tra seconda metà del Novecento e primi 2000. Possa riposare in pace Edna O'Brien, e grazie per i bellissimi libri. Stasera ne porterò qualcuno, e magari perché no, li leggiamo assieme e poi ve li portate a casa. Pensate un po', il Breakfast Club oggi è in vena di ricchi libri e cotillon. I understand that the world is bigger than I ever perché il bello di avere tanti DJ intorno è che non sei sempre in console. Quei DJ set che facevo da ragazzo, che duravano 5 o 6 ore, ecco, non è così. Posso dedicarmi anche ad altro. No, non è che sia uno sfaticato, ci mancherebbe. Anzi, a proposito di fatica, adesso vi racconto una cosa. Perché faccio conduzione così in bermuda e infradito e il caldo dello studio? No, a me il caldo non dà nessun fastidio. Quando sentirete me lamentarmi per il caldo, vuol dire che è veramente caldo, ma veramente molto caldo, eh? No, è perché purtroppo sono cambiate tante cose in ambito di lettura delle prime pagine, ma soprattutto poi in ambito di attualità politica, nella quale non riesco ad esimermi, per onestà intellettuale, a portare anche il mio pensiero, che certo può essere non condiviso, ma ultimamente con grande difficoltà, e questo mi porta a sudare terribilmente. Mi vengono in mente le parole di mia madre, ok? Tu puoi lasciare il lavoro da capo cantiere, ci mancherebbe, però ricordati che se tu seriamente farai il lavoro che andrai a fare, non credere di fare meno fatiche. Aveva ragione. Mamma mia, se avevi ragione! È una fatica che mi fa felice, felicissimo, perché amo alla follia il mio lavoro. Comunque, detto questo, le difficoltà, sì, la redazione giornalistica, io faccio parte della redazione culturale, però chiaramente ho delle entrate anche in quella giornalistica, con rassegna stampa sempre più difficile, lettura delle prime pagine, delle sudate che se avessi la maglietta ne dovrei cambiare almeno 3 o 4 a puntata. Quindi sì, è veramente difficile, in quanto potrei leggere testualmente le notizie e attenermi unicamente proprio a una lettura. Purtroppo non ce la faccio. E nel panorama, definiamolo di sinistra, dai, definiamolo così in maniera molto tranciante, di sinistra, un'idea anche come negli anni 70, dal PSD fino ad arrivare a una sinistra extra parlamentare, adesso quella in cui io sono cresciuto. E adesso le cose sono completamente cambiate, soprattutto negli ultimi 3 anni, con i vaccini, con il Covid, con la pandemia. Cioè, c'è stata veramente quella che io ho definito una lotta fratricida, che è stata devastante ulteriormente per una società progressista già in gravi difficoltà. C'è stata veramente un motivo di attacco costante per chi aveva una visione diversa, una visione critica. Il problema è che quando gli attacchi ti arrivano dall'altra parte, io la chiamo così, e beh, sempre è stato così. Ma adesso non è più così. Adesso gli attacchi ti arrivano anche da chi, ovviamente, tu avevi un'idea condivisa e importante. Capisco, la discussione, il confronto, il dibattito è fondamentale, la critica e l'autocritica anche all'interno. Ma è diventato qualcosa di importante in maniera divisiva. E poi l'aggravarsi di queste cose è arrivato con la situazione internazionale, la guerra in Ucraina. Anche questo non ve ne parlo, cioè veramente è stato qualcosa di... Io certamente non riesco ad esimermi dall'esprimere le mie opinioni, che possono essere anche impopolari, ma per onestà intellettuale le porto assolutamente, come anzi ringrazio l'emittente, la ringrazio calorosamente in maniera devota, che mi dà la possibilità di esprimere tutto ciò e di fare il mio lavoro. Beh, per quanto riguarda questo, la contraddizione è che poi ti ritrovi invece dall'altra parte, seppure con, ricordo sempre che per dire di sì ci sono 1000 modi, per dire di no ce n'è uno solo. Ecco, quindi ti ritrovi dall'altra parte che ci sono contenuti che paradossalmente, seppur con aspetti molto diversi, diventano condivisi, ed è una lotta ogni giorno, una precisazione, fare una sorta di critica è un camminare sulle uova costantemente, con la paura di, con... Certo che farlo con attenzione, questo stimola ancora di più nell'espressione del mio lavoro, di certo, ma come vi ho detto, è una bella fatica, eh? una bella intensità. Del resto però è giusto così. E non vi parlo poi della redazione giornalistica. La redazione giornalistica anche per la nostra città, per quanto riguarda il recente patto delle besta, ha ricevuto critiche importanti da tutte le parti, pur restando in ambito progressista in questo caso. Ma come ho già detto in precedenza, l'amore per il nostro lavoro ci ha sempre portati a portare al microfono, oltre che i contenuti in maniera professionale, sto parlando soprattutto per la redazione giornalistica, anche in maniera totalmente libera. E questo è un fondamentale per quello che ascoltiamo anche e leggiamo ai giorni nostri, con un governo che indica dei giornali di opposizione come questi sono sotto osservazione perché non va mica tanto bene. Ecco, noi abbiamo, seppur chiaramente, una realtà editoriale molto più piccola, ma sempre avuto queste caratteristiche. Beh, si dice, no, che se arrivano attacchi vuol dire che stiamo facendo bene il nostro lavoro, e questo è importante per farci andare avanti. E questo è il ringraziamento anche che voglio fare a chi non la pensa come me, e aspetto anche le critiche. Voglio farlo a chi mi ha incoraggiato: Matteo, Fabio, Gianluca, che hanno dato attenzione al mio lavoro con la co-conduzione, molte volte corredando anche a cose che mi stavano sfuggendo e riportando motivi di dialogo ulteriori a questa critica. Mi piace il caldo, mi piace il sole, amo l'estate. È un problema? A Amo le giornate lunghe, amo la luce, amo il mare, mi piace la sabbia. Credo fermamente e denuncio i gravi cambiamenti climatici che il liberismo, l'aspetto di trascuratezza che c'è nei confronti del clima e dell'ambiente, stanno avvenendo in maniera oltre che preoccupante. Posso essere critico con i sistemi di opporsi a tutto ciò e su come vengono diffuse questi contenuti, su questo posso essere critico pur essendo fermamente convinto su quello che sta avvenendo e molto preoccupato. Beh, mi auguro di sì, Più volte per tutta la primavera ho detto e in maniera reiterata è l'apertura. È maggio, ci sono 9 gradi e sta piovendo. Adesso poi ci ritroveremo che l'estate arriverà in maniera prepotente e arriverà ai primi di luglio. Sta finendo maggio, ci sono 14 gradi, piove, è nuvoloso, ancora con il maglioncino. Lo ricordate perché sottolineavo, magari ricordatelo poi quando l'estate sarà calda di quello che sta succedendo adesso. I quotidiani, poteva fregar di meno di tutto ciò. E giugno continua a essere non esattamente una temperatura di stagione. Caiu, meu samba caiu. Quando ela diz que me disse, quando ela finge ser minha, quase me deixo levar. Ah no Matteo, adesso quando diventi sindaco vedrai che fatica. No, perché mi è stato chiesto di entrare in politica. Sono molto autocritico, sono anche molto conscio delle mie capacità. Non ho le capacità di fare politica, per cui posso presentare un libro, posso presentare contenuti per la mia passione che è all'arte, posso emozionarmi e raccontarvi delle mie emozioni per uno spettacolo a teatro, fare recensioni, insomma, ma sinceramente non ho le capacità di fare politica. Questo comunque grazie per l'incoraggiamento, Quando ela sobe no salto, desce no muro d'asfalto, io deixo un samba no ar. Ricordate quando ci si salutava col gomitino? Ricordate quando bisognava tossire nell'incavo del gomito? Ma vi ricordate quanto ci hanno preso per i fondelli? E non mi fate infervorare su questi argomenti, ce ne sono tre particolarmente che sono clima, Ucraina, Russia e pandemia, cioè nel mondo del lavoro il Green Pass, gli interessi che l'Unione Europea aveva per i vaccini, le conseguenze che tuttora si stanno vivendo. Ma a queste cose le ricordate? Io me le ricordo, e come? Io venivo al microfono a Radio Città Fusico, anzi grazie all'emittente che mi aveva dato il permesso di fare tutto ciò, e venivo in diretta a lavorare, denunciavo tutto ciò già all'epoca. E pensate il paradosso, continueremo a parlare di Olimpiadi perché c'è stato un aspetto che è stato veramente ributtante. A una ragazza di 19 anni è capitato, guarda, è inaccettabile. Comunque, tornando all'argomentazione, non voglio divagare come al solito. Ecco, adesso danno il permesso per fare le gare di nuoto nella Senna. Cioè, ci rendiamo conto della situazione, di quanto ci stanno prendendo per i fondelli. Cioè, 3 anni fa si tossiva nell'incavo del gomito, ci si salutava col gomitino, adesso in mezzo ai pondig, in mezzo ai topi, in mezzo all'inquinamento più totale, organizzano il triathlon. Ma non vi vergognate? sindaci e dirigenti, tra virgolette, ma tante virgolette di sinistra, che dicevano, beh, bisognerebbe istituire dei vagoni apposta per trasportare i non vaccinati. Ma ci rendiamo conto? E un voto l'ho preso, beh, è facile, quello di mio fratello. Saluto Sergio Fanti. Questo è nepotismo. Grazie Sergio. In effetti le chiamiamo contraddizioni, ma sono ben di più, ben di più. Il rimedio, prima le borraccine, ricordate? Sì, perché se un operaio che sta portando il catrame nelle strade, soprattutto magari un operaio di origini senegalesi, precario, vittima del caporalato, così, se sta morendo di sete sotto il sole e trova una bottiglietta di Levissima, quello sta ammazzando il clima. Le grandi industrie magari mettono eco, green, ambiente nei loro nomi e nei loro progetti e fanno le peggio cose, no, quello è il Green Deal. E soprattutto il Green Deal ha avuto un motivo di soluzione che è fondamentale. Ha veramente cambiato e salvato il clima. È mettere un pezzetto di plastica un po' più resistente per non disperdere il tappino nell'ambiente. Città, rientriamo tra poco con questo Breakfast Club di chiusura, ultima puntata 2023-2024. A tra poco. Atleta, una nuotatrice, manca al podio per un centesimo di secondo. Lei è felicissima, ho fatto un grandissimo risultato, sto piangendo di gioia, capisco, peccato per un centesimo, ma è come se avessi vinto perché è la giornata più bella della mia vita, sono felicissima, oltre alla partecipazione alle Olimpiadi, oltre questa bellissima esperienza, beh, ho ottenuto un gran bel risultato, sono felice. Só diversão, maresia, muita fé e coragem pra enfrentar. Falei? cose. Maceo ci fa, ma lo sa che ha perso. Ma lo sa che ha perso per un centesimo. Ma si rende conto di quello che sta facendo? Sta esaltando la sua sconfitta. No, la sconfitta è la vostra, che siete delle zolle di letame, rigurgiti di uno sport nazifascista che non guarda quegli aspetti più importanti, che sono molto più importanti rispetto a quello che portate invece con riempendovi le bocche di belle parole come lo sport, come la bellezza delle Olimpiadi. Ecco, no, non c'entrate niente se ragionate così. E siete quel rigurgito, come ho detto, zolle di letame, che è cresciuto vicino ad allenatori e dirigenti di stampo veramente dittatoriale. Ne potrei portare diversi esempi che hanno fatto il male dello sport, che è bellissimo. È stata la devastazione dello sport. Per una volta difendo la rete, sì, ne è responsabile dell'allontanamento dei giovani dallo sport, e come che ne è responsabile, ma anche questi personaggi che portano avanti questi nefasti contenuti è veramente allucinante. Ma ne ho degli esempi, mi piacerebbe tanto, da ex atleta professionista, farne dei nomi e cognomi, ne ho una voglia. Non conta niente, ma mando un caloroso abbraccio a quella ragazza. Anch'io probabilmente avrei pianto di gioia con lei, anzi sicuramente. Fateci caso, le critiche sono arrivate da appassionati, da giornalisti. Non c'è stato un allenatore o un dirigente che ha portato critiche alla risposta negativa e gravemente di dileggio che ha avuto questa poco più che bambina atleta, che con un ottimo risultato ha dato lustro invece, oltre che alla sua giovane età, alla sua immensa passione. Non ho sentito parole alzate di scudi da parte di dirigenti o di allenatori, no. ...1979, Virtus Bologna, Crevalcore Basket. La Virtus Bologna sta vincendo 120-8. Io in panchina sto così seguendo la partita, dopo aver fatto la mia parte in una partita che giustamente è stata con grave disparità di competizione. Succede, l'importante è aver dato, perché no, anche una società non di grande lustro ma di grande passione la possibilità di partecipare assieme, no? Ecco, un bambino fa una realizzazione bellissima, un canestro meraviglioso. Un avversario fa questo canestro 120-10, questo canestro stupendo. Tornando in difesa, passa vicino alla panchina. Io, meravigliato, anzi, mi alzo in piedi e lo applaudo con un sorriso. L'allenatore in questione, come ho detto, nazifascista, mi ha mandato in doccia con tanto di urli e svergognandomi davanti ai genitori per questo mio atteggiamento tenuto. Quindi so bene, non è esattamente la stessa cosa, ma secondo me lo è. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada, bem querido, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada. Esperada, desejada, adorada. Oltretutto stanno lottando per tifare l'oro ad un uomo, per lei no. Ma ce ne sono di questi esempi, Matteo. Grazie per questa tua testimonianza. Io non seguo, perché tra Eurofestival e Sanremo purtroppo anche le Olimpiadi. Per non parlare poi delle critiche alla cerimonia di apertura. Bella! Io poi sono un appassionato di classici greci, riportare gli dèi che applaudono, sono contenti in questo banchetto, intanto che sotto gli atleti c'è la tauromachia, c'è la lotta greco-romana, ci sono tutti questi sport, e quindi come contenuto poi magari come spettacolarizzazione puoi dire ma sì, ma è eccessiva, ma insomma, certo, hanno portato, i motivi di critica per le Olimpiadi sono altri, non questo, che invece culturalmente secondo me è stato molto bello. E la mia critica va all'ignoranza del mondo più conservatore, che ha definito questa rappresentazione un dileggiare l'ultima cena. Você no baile, pelo jeito você vem, todo chique por charme, seu sorriso me faz bem. Cominciamo dal lunedì. Quest'anno per i magazine è stato seguito il Breakfast Club materialmente dall'edicola in centro a Loreo, che nel weekend mi teneva le pubblicazioni. Per questo un grazie ad Alessandro. Grazie Sandrino. È che il mio coração già si discompassò. Edicola Cabianca per il resto della settimana, un inchino, oltre che un grazie per la collaborazione, indispensabile. Simone, perdonami se la mattina sono un po' sopra le righe, ma del resto alzarsi presto, se un po' fumantini a volte. Però il mio abbraccio costante e il ringraziamento alla tua collaborazione indispensabile. Grazie, l'edicola Cabianca. Io quero ver você no baile. Seppur quest'anno abbia seguito un po' meno, grazie per l'ispirazione, anche la conversazione a volte a distanza, impegnato nel suo lavoro, a Paolo Zanardi nel Move to Groove. Nel Move to Groove abbiamo avuto il Rookie of the Year, ma ognuno è stato matricola dell'anno nelle collaborazioni del Breakfast Club. Intanto per il Move to Groove ringrazio Pietro Rossi, ringrazio la voce di Contrappunto, Paolo Onofri, grande Pietro e grande Paolo, oltre a riferimento biblico, abbiamo un grande contenuto di competenza e passione cestistica. Abbiamo conosciuto Silvia Pioggia per l'Incipit in una diretta dedicata agli Incipit, grazie alla Sissa, e queste piccole clip torneranno per anticipare il Voltiamo Pagina. Breakfast Club è stato molto denso con il rientré del Last Minute, per cui insomma abbiamo dovuto un pochettino saltare quest'anno, ma cercheremo di dare continuità anche con il prezioso Incipit. Grazie alla prof Silvia Albertazzi, il notaio Stefano Calanchi, il mercoledì per Radio Città Fugico, per arricchire la biblioteca di ascoltatrici e ascoltatori. Grazie per le bellissime playlist a tema, per la passione e l'ottimo lavoro. Grazie Silvia, a presto, grazie Stefano. Buone ferie anche a te Andrea, grazie e una buona giornata. Grazie per aver condiviso, oltre che un ottimo lavoro, la passione che abbiamo nel gestire, nel coccolare, nel giocare con la nostra redattrice Irma, che tra poco, anzi mi sa che è già in redazione, sento raspare dietro la porta. Irma è un border collie australiano, come ben sapete, del nostro direttore Alessandro Canella. Grazie Alessandro, beh, per Irma innanzitutto, no, sto scherzando, grazie Alessandro per il lavoro, per la quotidianità che condividiamo e per Radio Città Fujiko. Quindi l'aspetto di continuità redazionale che vi dà appuntamento e con indubbiamente stimolo e motivo di crescita anche per la prossima stagione. Grazie a Libreria Ubik, che è stato il fornitore ufficiale del Voltiamo Pagina. Grazie a Manuela, grazie a Raffaella, grazie a Laura, libraie del Libreria Ubik. Buongiorno Stefano, buongiorno William, grazie per tutto ciò che hai ricordato del periodo pandemico. Che vergogna, sì, che non dobbiamo dimenticare, no, non dobbiamo dimenticare. Grazie Stefano, un medico sospeso 3 volte, sottolineiamo. Grazie Bologna, che sei cresciuta nell'arte, nei contenuti espositivi, nelle voci che hanno dato una presenza fondamentale non solo per la rubrica In Mostra, da Francesca Sinigaglia, direttrice e co-curatrice del Museo dell'Ottocento a Bologna, a Roberto Martorelli per la Certosa, il museo a cielo aperto della nostra città, fino ad arrivare a Lorenzo Balbi del Mambo, che ha avuto un grande lavoro e un grande impegno per una diffusione non immediata, ma che certamente ha portato una crescita nell'interesse artistico per la nostra città. A Maria Luisa Pacelli della prestigiosa Pinacoteca di Bologna. E poi un ringraziamento particolare va, sperando di rincontrarla presto, alla compagna e amica Elena Di Gioia. Ci auguriamo di ritrovarla in ambito culturale al più presto. Mancherai anche tu Cristina, e ti auguro buone ferie, sperando di rincontrarti al più presto in una delle nostre gite culturali. Grazie Cristina, un caloroso abbraccio, buona estate. Giovani voci, Lorenzo Pauri, nel Voltiamo Pagina, Most Improved Player, l'atleta più migliorato, c'è questo titolo nella NBA fondamentale. Grazie Lollo, ti sei un po' sparito, però sappi che la mia gratitudine ti arriva con un ringraziamento per l'ottimo lavoro redazionale per il Voltiamo Pagina. L'inizio di stagione con Viola Balugani. E il percorso che mi auguro ci sarà, indubbiamente ci sarà tra poco, perché è in rassegna stampa con Anna, la voce che nell'ultima parte di stagione, oltre che per quanto riguarda il teatro, anche per contenuti riguardanti le conferenze stampa, gli articoli sul nostro sito www.radiocittafujiko.it, Anna Cesari. Tutte e tutti gli uffici stampa, da Padova Studio SC, un fondamentale per la nascita della rubrica In Mostra. tutte le sedi teatrali: Teatro Arena del Sole, Emilia Romagna Teatri, Silvia Mergiotti dell'ufficio stampa in collaborazione con il Breakfast Club. Grazie Silvia. Giulia di ITC Teatro. Le Pepite, Rossella e Anna Maria Maner, ci sentiamo costantemente. Grazie, non potrei fare le interviste mattutine, perdonate se chiedo l'intervista alle 7.45, però come ben sapete, beh, da mattiniero cerco appunto di tirare giù dal letto più artisti, direttori artistici possibile, quindi grazie per la vostra collaborazione, la vostra preziosa professionalità. L'appuntamento è alla prossima stagione. Ma come tu nell'ultima puntata fai ringraziamenti tipo i titoli di coda, il ringraziamento agli elettricisti, ai macchinisti, ai truccatori, ai fotografi. Sì, lo faccio e ne sono ben contento di farlo e lo farò sempre. Sono due parole che ogni tanto sfuggano, si chiamano gratitudine ed educazione. Molto felice e onorato di discutere su opinioni diverse. Non leggo tutto il tuo messaggio perché è un po' lunghino, però mi rendo conto del tuo pensiero, lo rispetto tantissimo. Guarda che non devia tanto dal mio, sappilo, però ne avremo modo di discutere questa sera. Grazie di cuore, a presto. Nuovo entrato, Angelica, con altri suoni ho voluto portare un'attenzione a queste sonorità, a questi contenuti, al martedì di altri suoni. Grazie a Massimo Simonini. Pensate che una sera, grandissimo Angelica, una sera a proposito di elettrotecnica ha voluto che presentassi io i contenuti della serata. Ho ricordato a Massimo che al Fioravanti a me mi hanno bocciato due volte. E a tutti voi una buona estate. Sono le 8.55, noi ci salutiamo, ci sentiamo tra poco con la rassegna stampa, ma il Breakfast Club stagione 2023-2024 termina qui. Lunedì 2 settembre saremo presenti e puntuali, ore 7. La puntualità, come ben sapete, la mia mania, no? Con un